stare bene. E forte soffia il vento, lo scorrere del tempo e notti piene. Sentire il forte battito del cuore, sangue scorrer nelle vene. Io credo nella vita e nell'amore, e maledico chi uccide la bellezza ed il sapore che ci rende unici. E grido forte tutto il mio dolore e la rabbia che ho nel cuore. E mi salva questa voglia di sognare, di essere, di esistere, di fare. Ho conosciuto gente e tutto mi sembrava senza fine. Basta poco per sentirmi vivo e mi fa stare bene. Troppo spesso dato e in cambio ricevuto poche cose. Ma l'esistenza in fondo non ha prezzo e si vive lo stesso. Io credo nella vita e nell'amore e maledico chi la bellezza ed il sapore che ci rende unici. E grido forte tutto il mio dolore e la rabbia che ho nel cuore.